Ciao cari amici, io sono Alex Raccuglia e state ascoltando Runtime Radio, la web radio geek. Allora, mi è stato chiesto di presentarmi, di raccontare la mia esperienza come podcaster, e siccome negli ultimi 3-4 anni ho iniziato a diventare podcaster, nel senso che io registro podcast in automobile, se sentite dei rumori di fondo, che cerco di eliminare in tutti i modi, ma qualcosa rimane sempre, la colpa è mia, per cui sappiate che il motivo è questo. Poi magari vi racconto perché lo faccio in automobile. Ma vorrei inizialmente parlarvi delle origini, di come ho iniziato a fare il podcaster. Tutto è iniziato una decina di anni fa, quando Simone Pizzi, che immagino conosciate se seguite questa radio, mi ha chiesto di partecipare come ospite al suo podcast, di tutto un podcast, bellissimo secondo me come nome. Dal punto di vista dei nomi, Simone ci ha sempre azzeccato. E in quel podcast, in cui si parlava un po' di tutto, ho raccontato la mia esperienza come videomaker, come regista, e è stato molto divertente. Spesso chi fa podcast inizia così, inizia essenzialmente come ospite e poi scopre che la cosa è divertente e poi continua. Subito dopo sono arrivati altri podcast di tecnologia, di costume, cose per divertirsi, cose per pensare. Fino a qualche un paio d'anni fa, quando il podcasting era una cosa che andava spiegata continuamente perché la gente chiedeva che cos'è un podcast, la soluzione che sfruttavo io per raccontarlo è sempre stata molto semplice. Parlavo di... è presente una trasmissione radio, sì, su internet ma on demand. Per cui passare dal podcasting, dal network di podcast, a una radio, una web radio, secondo me il passo è anche abbastanza breve. Il confine è piuttosto labile. Perché faccio podcast? Perché è una bella domanda. Credo che dipenda dal fatto che a me piace abbastanza insegnare. Sono stato docente spesso e volentieri di montaggio video, di compositing, di regia, di un sacco di queste cose che hanno a che vedere con il mestiere principale che faccio. Io ufficialmente sono un regista di spot televisivi, video promozionali, ma mi occupo sempre più spesso di post-produzione. Ecco, devo dire che insegnare mi piace abbastanza quando dall'altra parte c'è un pubblico, insomma, tra virgolette studenti, a cui piace imparare. Essenzialmente io faccio agli altri quello che mi sarebbe piaciuto qualcuno facesse a me. Detto così potrebbe anche significare qualcos'altro. No, la realtà è che essenzialmente io cerco di far seguire il mio percorso che mi ha portato a imparare delle cose e a farle diventare la mia professione alle altre persone. Se per qualcuno una mia lezione, una mia comunicazione, un mio podcast, una mia puntata, un mio episodio di una trasmissione radiofonica risulta essere una sorta di piccolo cortocircuito, per cui gli risparmia settimane, mesi di giri per capire come funziona una cosa, perché gliela dico io direttamente, io sono abbastanza contento. Credo che sia questo il motivo per cui faccio podcasting e il motivo per cui lo faccio nel modo in cui lo faccio. Ultimamente lo faccio in automobile perché mi sono reso conto che l'automobile è una sorta di luogo sicuro, una stanza privata, una sorta di sfera ovattata che ricorda molto quella del Bambino delle Stelle di 2011 nello spazio, e anche qui avremo molte cose da dirci, in cui io posso dire quello che voglio, fare quello che voglio, parlare ad alta voce, insultare, pensare. Sono molto libero e questo è un aspetto molto, molto comodo quando si fa una comunicazione senza avere qualcuno davanti. Sai, se sei in uno studio radiofonico dal vivo con un microfono e sai che c'è gente che ti ascolta in diretta o con una differita di qualche secondo, allora è anche abbastanza facile parlare ad alta voce, avere un tono molto, molto assertivo, molto comunicativo. Se sei tu da solo in una stanza registrato davanti a un microfono, essenzialmente hai un minimo di... che ti chiudi un pochettino in te stesso, sia dal punto di vista emotivo e di conseguenza anche dal punto di vista fisico, per cui quello che esce è meno forte. In automobile no, sei assolutamente da solo, puoi fare quello che vuoi, puoi cantare a squarciagola le canzoni, puoi insultare il tizio davanti che ti ha tagliato la strada, puoi gioire perché in radio la tua squadra ha fatto gol. Per il fatto che è rumorosa ma anche isolata dall'esterno, è veramente un posto molto molto comodo, e di conseguenza io utilizzo questo posto per registrare quando vado al lavoro. Quest'ultimo anno un po' meno perché ho fatto molto smart working, insomma quando vado al lavoro cerco di impiegare questo tempo raccontandomi e anche facendo ordine nelle mie idee. Mi rendo conto che a volte alcune mie puntate sono poco fruibili perché mannaggia, sono a volte pensieri che riguardano me e sono anche indirizzati a me. Diciamo che per tre volte dico e ascolto un concetto e questo è molto forte, diciamo che mi aiuta a studiare. Se io dovessi seguire un corso di qualcosa che magari non so bene, credo che mi farei un podcast apposta, perché così sono obbligato ad ascoltarmi almeno due volte e a dire le cose almeno una volta, e in questo modo rimarrebbero più fisse nella mia testa. È vero, a volte faccio podcasting per me stesso, faccio trasmissioni per me stesso, faccio comunicazioni per me stesso, ma io credo che tu smetti di fare cose per te stesso, le fai solo per gli altri, e alla fin fine diventa una sorta di lavoro che va bene, però diventa anche una cosa meno personale e diventa anche più fredda, e questa cosa va a togliere qualcosa sulla comunicazione. Questo non vuol dire che non si possono fare delle cose squisitamente per gli altri, però se uno costruisce un'intera trasmissione soltanto dando agli altri quello che vogliono sentirsi dire, magari può anche avere successo, però secondo me alla fine della giornata non sta bene, o comunque non sta meglio. Io invece voglio fare questo tipo di comunicazione perché alla fine, dopo che ho finito questa cosa, sto meglio. E questa cosa può anche essere considerata egoista, anzi lo è, ma sono ben contento. Poi se nell'ottica di io sto meglio, qualcun altro, anche solo un'altra persona, sta leggerissimamente meglio, beh allora fondamentalmente abbiamo vinto tutti. Runtime Radio è una radio, è un collettivo di persone, un collettivo di amici che come me, magari per motivi leggermente diversi o anche fondamentalmente diversi, si trova a realizzare questo tipo di comunicazione in gruppo, che è una cosa bella, è un modo interessante per trovare nuovi amici a 40 rotti anni e che sono sparsi per tutto il globo. Dove dico tutto il globo perché davvero spesso e volentieri trovo persone che ci contattano per i motivi più disparati, perché ci hanno ascoltati e che arrivano dal Giappone, dal Messico, dal Nord Europa. E questa cosa qui è veramente bella, perché essenzialmente è il vero spirito dell'internet delle origini, dove la globalizzazione non significava che i potenti potevano andare dappertutto e conquistare tutto, ma che le singole persone potessero entrare in comunicazione, in contatto con le altre persone sparse per questo piccolo strano pianeta. Credo che però raccontare questo potrebbe essere fuorviante e esulerebbe un po' dagli scopi di questo piccolo spazio che mi è stato concesso. Quello che mi auguro da qui ai prossimi mesi è che Runtime Radio cresca sia dal punto di vista del numero di ascoltatori, noi vogliamo comunicare quanto più possibile, e perché secondo me facciamo delle cose belle e se la gente ci ascolta magari qualcuno piacciono. Spesso dico a Simone, che è uno dei miei più cari amici, Simone Pizzi, è poco importante secondo me avere centinaia di migliaia, milioni di ascoltatori, perché essenzialmente noi abbiamo uno zoccolo duro di gente che ci apprezza così come siamo, molto fuori dal coro, molto fuori dalle logiche di comunicazione che sono attuali, persone che magari hanno la nostra età e che hanno fatto dei percorsi comuni. Ecco, noi tendiamo a trovarne degli altri perché secondo me possiamo dar loro delle cose e anche loro possono darcene in cambio, in risposta. E mi auguro anche che questa crescita sia una crescita anche nostra e che riusciamo a lavorare con maggiore professionalità senza però mancare di entusiasmo e degli occhi da bambino, cioè di quel senso di meraviglia che a volte ti arriva e che dici cacchio che bello, è come se fosse la prima volta. Ecco, questa è una cosa che non vorrei perdere mai andando avanti a fare questo pseudo mestiere. E detto questo, direi che abbraccio tutti voi cari teleascoltatori e vi auguro un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!